Allo, allo? Beh, come va? Ciao Antone, oggi un po' come ho bene, molto stanco, ho dormito male, sono addormentato vestito, ho dormito male, fui. Stamattina comunque sono uscito, ho ritirato la pensione per mamma, siamo andati a Piazza dei Segni, pigliarci caffè e quant'altro, fare la spesa, cucinare, andare a mangiare le gatte e caspita, oggi mi ha preso la stanchezza però, ho sofferto il caldo, c'era un caldo, pensa che a Piazza dei Segni seduto fuori al bar ero in camicia, vabbè camicia felpata invernale, no? E la maglietta sotto, però ho avuto caldo, dai. Io sono uscito stamattina, avevo un freddo. Sono andato per prendere i corsi, le passi a Simona, come si chiama, per fare la colazione, poi ho preso le medicine, dopodiché i biglietti per il tram, e poi ce l'ho mandata a pronto soccorso stamattina. Adesso sto aspettando i referti, il foglio di via e poi rientro a casa. Ah, ma tu sei solo adesso a casa? Io sono solo. Ah, non lo sapevo, credevo che stesse poco bene ma che fosse a casa Simona, capito? Vabbè, dai, già la mettono in sesto. Cosa ti volevo dire, Antone? Forse il filo, dai, mi passano le cose da dirti, me ne dimentico. Però devo scrivere su un taccuino, dai. Guarda che succede anche a me. Quando vado a Ruspi vado per comprare tre cose, poi mi faccio un giro, prendo quello, prendo quell'altro e cazzo, ho detto, ma cosa cazzo devo pigliare io? Poi devo rimuginare e poi mi viene in mente, cazzo, mi sono beccato quelle due cose, cazzo. Allora torno indietro, poi se andare subito alla casa, piglio quelle due cose e poi torno di nuovo alla casa. Ah, ecco, le biglietti del tram ti volevo chiedere, ma sono quelle di una volta, quelle in cartoncino, o hanno cambiato? Perché stavano parlando di biglietti digitali, non ho capito come. Sono di plastica, so, non c'è scritto niente, non c'è nessuna banda, non è nuda, boh, non si capisce come diavolo funzioni, ma comunque sia, quando sali lo metti di fronte all'obbligatrice, quella grande verde che c'è, che è tonda, gliela appoggi vicino e lui fa tac, l'obbligatrice. E basta, dopodiché ti dura 90 minuti e buh. La verità non so come cazzo funziona, perché non c'è o c'è qualche chip dentro, cosa ne so, te lo dico, no, Oscar, io non ho mai aperto una di quelle carte, ne ho due, io che controllo come cazzo so fa, c'è solo il numero di serie sotto e basta, non c'è altro, forse legge il numero di serie, hai capito, è fatta. Ma quindi quelli cartacei che ho io, che avevo preso, che ne so, un anno fa, non servono più, così è? No, già funzionano ancora, basta che li fai fuori, c'è ancora l'obbligatrice vecchia, capito? Se li fai fuori, te li fai, se ne hai due, se li fai fuori, poi ti compri quelli nuovi. Sono di plastica, quando me le date in mano, ho detto, ma cazzo facciamo, detto, cazzo. Dove si mette questa cosa? Dice, no, deve solamente metterlo di fronte, mi ha detto, gli ho detto, tipo, cosa? Tipo quella carta che si usava una volta, che facevi l'abbonamento. Quella deve essere tecnologia RFID, tipo gli antifurti, è una cosa piatta, certe volte anche un filamento come un capello, come passa davanti al sensore c'è già tutti i dati. E vabbè, sì, ne avrò 3-4, penso 3 però, perché io certe volte quando non me la sentivo di andare dal medico lì, in Viale San Pietro, guidando io, mi pigliavo il tram, bello, seduto. Ah beh, facevi bene, no, io di solito il tram lo vado più da Nico qualche volta. Vabbè, faccio la, come si chiama, compro le medicine di Fiorentina alla farmacia e poi passo da Nico, bevo due birre e poi salgo a casa alle verso le 8, è qualche cosa. Solo per quello ho i biglietti, e poi per andare da Fusaro ho comprato due cavetti per l'alimentazione, uno da lavorato a Daniele per l'apparecchio suo e uno per il mio, e basta. 12 euro me l'ha fatto pagare, cazzo di cavetti, per il 3009. Giappa. Io ho steso la roba, dopo ho lavato la roba, insomma oggi è già un po' piena, mi stava venendo un sonno prima, però ho detto se proprio devo dormire meglio la notte che non di pomeriggio, e così è. Comunque bel sole oggi, veramente bella giornata. Tanto io, sai, tra portare mamma, togliere la sedia, piazzargliela, un caldo col giubbotto mi è venuto, quindi io sono stato benissimo seduto a Piazza dei Segni al bar, quello vicino a MD, no? E c'era il sole, non fortissimo, però appena velato, però c'era il sole, io stavo bene così, eccetera. E dice sta bene, a voglia, c'è il sole di fronte. C'hai? Cosa di fronte? Il sole di fronte, ho detto. Sì, ha cambiato tanto rispetto a sabato e domenica. Più che altro sabato, non più. Domenica, così, dai. E poi domani, vabbè, altre cose da fare. La mattina, la sera, che palle, guarda. Sono stato in stamattina. Mi ha chiamato Marco, dice io andiamo a berci una cosa, mi ha detto. E questo mi ha dato tutto soccorso, mi ha detto. Mi ha detto, cosa faccio il cane da solo qua a fare il lupo, gli ho detto, il lupo mannato. Al limite ho detto domani, quando finisci su, gli ho detto mi chiami e andiamo a berci qualcosa. Lì a circolo di Lanzato, con la birra costa 2 euro, il vino 2 euro, che gli ha voglia. Sì, i prezzi là sono modici, se vai al bar ti spennano, d'altronde il bar c'ha prezzi da bar e il circolo prezzi da circolo. Naturalmente bisognerebbe essere tesserati, anche per non far passare casino il gestore in caso di controlli, lo sai, no? Infatti quando venivo io ti chiedevo, Antonio, ma io posso entrare? Non per me, perché poi fanno casino il gestore se c'è un controllo, capito? No, a me non me l'ha chiesto tessera. Entro direttamente là, sabato a pranzo di ero. 15 euro per ciascuno, più due birre a pagato. Quindi fate i conti. 15 più altri 5 euro, 20 euro in tutto pagato. Eia, ma tu stai dicendo circolo d'Anico o quello latte dolce? No, quello che c'è a fianco a Fusaro. Fai pranzi il sabato. Eravamo io, poi c'era un'amica di Marco che dove faccio il lavoro io, e poi c'era un carabiniere che ho conosciuto che vuole comprarsi dei baracchini, capito? Sì, ma quello che ti ha chiesto di trovare qualcosa da comprare? Eia, proprio così. Infatti adesso glielo cerco qualche cosa, come la trovo, e dico, c'è questo qua. E lui non abita a Sassari, lui abita per andare a Castelsardo, capito? E c'ha il mare da una parte e il mare dall'altra, cazzo. Sto è. Ah, per andare a Castelsardo, prima di Castelsardo c'è, come si chiama quella località? perché non mi viene mai il nome, porca miseria. Bagno, ciao, buonasera. Bravo Giulio, 10 a Giulio. Ciao Giulio, ben sentito. Vabbè, non è quella, ma è una, come si dice, un paesino turistico, mi hai capito? Prima di arrivare a Castelsanzo, è nella sala per Castelsanzo, non mi ricordo come si chiama adesso, non mi viene in mente il nome. Avanti Giulio. Qui, ciao Tore, sono arrivato qui per intervenire un po' per dare suggerimento, proprio giusto. Va bene, comunque Marco, tutto a posto, la stufa messa a posto, aggiustata, 225 euro, il motorino che spingeva il pellet nel braciere. Ah, quindi è partito il motorino, dai, quello che fa girare quella vite elicoidale che carica il pellet, così è? Esatto, bravo, proprio quella, mi sembra che si chiama il clock, una cosa del genere, non mi ricordo la parola giusta com'era, ma comunque è simile, clock, vabbè, comunque, già mi hai capito. Ma era, non era coperto la garanzia, Giulio, forse ce l'avevi da più tempo la stufa pellet, era fuori garanzia? Sì, fuori garanzia, Marco, 16 anni, ce l'ho 16 anni quella stufa, è una di quelle stufe idro, cioè idro si intende che mi scalda i radiatori, no? è come un impianto a gasolio, solo che anziché essere alimentato a gasolio, alimentato a pellet. Se ho 16 anni, già è nuova, aspetta, 16 anni fa l'avevo pagata, mi sembra, se ricordo bene, 3.500-3.700, una cosa così. Ah, ce l'hai da tanto, no? Credevo fosse qualcosa di recente, eccetera. Beh, quanto durano? Comunque la vita di quelle cose è lunga, no? Non è che devi stare 10 anni a cambiarla, no? Si cambiano i pezzi e tira avanti. Sì, infatti è una Royal della Palazzi, una cosa del genere, che la costruisce, qualcosa del genere. Sì, è una gran bella stufa, è grande, proprio, è scalda, che è una meraviglia, guarda, a un certo momento la devi abbassare perché è anche troppo caldo, nonostante che la fai partire ad una temperatura non molto alta, io la faccio partire a 3, la faccio partire, ma dopo un'oretta abbassala, perché sennò ti devi togliere tutte le magliette che hai addosso, perché c'è troppo caldo. Guarda, Palazzi, non so se è quella la marca, ma c'è una marca top che proprio fa coso, stufa pellet top di gamma, non quelle stracco barato che trovi certe volte da coso, da Tecno. Mi pare sia proprio Palazzi, roba un po' di alta gamma, ecco. Sì, è una delle migliori in assoluto, nonostante i suoi 16 anni, ma non si sa, naturalmente devi trattarla bene, ovvio, no? Io tutti i giorni, intanto non costa niente, prima di accenderla attacco l'aspiracenere, 3-5 minuti massimo, pulisco il braciere, la pulisco, insomma, va bene. C'è gente che la lascia tutta la settimana senza pulire, e così non va bene, no? A me non mi va così. Intanto, intanto perché ho il tempo per poterlo fare, e poi anche perché mi fa piacere mantenerla bene la stufa, non lasciarla andare così a conto suo, ma vogliamo scherzare. Va bene, riprendi Antonè. Ehi, capo, ogni tanto c'è un americano che ti passa di qua, accorda lineare, commissario. Ehi, quello deve essere qualche parte che tutti i giorni si sveglia e spaventa. Vado in bagno, Antonè. Si mette a vuoto. Ehi. Lo sento io tante volte, lo sento molto spesso quello. Capito Marco, per cui non... vabbè, questo mese, se dovessi fare la somma di tutto quello che ho speso o come spesa extra, praticamente mi sono speso quasi tutta la pensione, tra riparazioni, visite mediche, un po' dappertutto, ho speso intorno ai 800 euro più o meno, praticamente la metà della pensione, dai. Figurati, ma con la tosse con in bagno. E soddisfatti come così i soldi. Anche devo fare una risonanza magnetica, ma cazzo ogni volta mi, o Cagliari o Nuoro. Ma è possibile, gli ho detto, che questi siano così scemi, detto. Quelli di Sassari ci rimandano a Nuoro a Cagliari, quelli di Cagliari ci rimandano a Sassari, detto, o a Lissano. Boh, ho detto, io non ci scendo, ho detto di là, aspetto 100 euro in la benzina e cosa legge, ho detto, preferisco pagare, detto. Pago la risonanza magnetica, faccio la carbone, la faccio prima. Beh, lo sai, oggi le visite sono così, è difficile farle con l'assistenza sanitaria, è molto difficile, non trovi spazio, se no dovresti aspettare un paio d'anni per poter riuscire ad ottenere un appuntamento, ma per carità, tutto a pagamento, ormai sto facendo tutto a pagamento. Tu mi dirai, ma per fare le visite a pagamento ci vogliono anche le possibilità per poterle fare, certo che questo è un bel discorso, infatti mi mettono nei panni di certe persone che purtroppo per loro sfortuna non possono o fare questo tipo di visite così a pagamento, allora sono costretti o non si devono curare oppure devono aspettare 2 anni prima di ottenere un appuntamento. Vergogna, vergogna la sanità italiana, stiamo dando i soldi alla guerra e lasciamo perdere l'assistenza sanitaria per le persone. Che vergogna. Avanti Marco. Break. Avanti. Buonasera a tutti. Gianni doppio numero. Ciao Gianni, ben sentito, salutore. E chi è questo Gianni doppio numero? Io non lo conosco. Marco, dimmelo tu, io non lo conosco questo Mario Gianni doppio numero. Ciao Gianni, buonasera. Sono nuovo entrato, non so manco come si faccia a parlare in questo apparecchio perché mi vergogno a parlare. Già, stiamo parlando un po' di malasanità, perlomeno il discorso è uscito su quello. No, che stavo dicendo che in questo mese mi sono speso la metà della pensione, me la sono speso tra riparazioni di stufa pellet e più tutte le visite mediche che ho dovuto pagare a colpi anche di 250 e l'ultima che ho fatto 240 all'oculista, sì, che si può immaginare. Questo mese proprio sono andato bene, questo mese sono andato veramente bene, mi ho speso più di 800 euro solo per queste cose qua. Io da giugno dell'anno scorso dovevo fare la visita agli occhi e per fortuna ce l'ho fatta a prenderla, l'ho fatta 2 o 3 giorni fa, la visita agli occhi, però me ne ho pagata anche io di visite Giulio, da quella cardiaca, dal cardiologo eccetera eccetera, perché non si trovava nulla qua, è un casino, adesso se uno non c'ha soldi fa che crepare, perché non può pagare e quindi non può visitarsi, non si può fare le cure. Purtroppo è così, oggi è così Gianni, purtroppo la sanità oggi non ti aiuta più, non ti aiuta più, eppure pensare che io nonostante l'età dovrei avere l'esenzione totale di tutto, come ho sempre avuto sino a un annetto fa, ma da un anno a questa parte sto facendo tutto a pagamento, tipo tacchi 270 euro, citoscopia 250 euro, visita urologica a 350 euro, ecografia a 350 euro, cistoscopia altri 250 euro, insomma tutti a base di così mio Gianni, te lo sto dicendo, questo mese io mi sono speso oltre 800 euro, più della metà della pensione, sì, che tu mettiti nei panni di una persona che non ha le possibilità per farlo, cosa deve fare? Non si cura oppure ti devi disabituare a mangiare? A me il primo periodo me l'hanno data a Perfugas e io a Perfugas non ci vado, se abito a Sassari devo andare a Perfugas a farmi la visita acquistica, che poi non so ma con che dottori ci sono a Perfugas, magari sono bravi però io non li conosco, e poi vabbè me l'hanno data qua e l'ho fatta qua all'Ina, l'ho fatta 2 giorni fa, però almeno quella me la sono scampata, intanto io questo qui me l'ha ordinata come ogni anno, me l'ha ordinata il diabetologo, perché fa tutti i controlli per vedere se sta andando tutto bene, e intanto io la visita ce l'ho a maggio, quindi c'era tempo. Sì, io adesso stavo pensando una cosa. Gianni, non vorrei sbagliarmi, ma sono sicuro che è così. Purtroppo la scomparsa del nostro amico è stato proprio per il fatto che magari non ha potuto farsi curare a pagamento. Ne sono più che convinto che è così, perché se avesse avuto le forze, la possibilità di farsi curare a pagamento, l'avrebbe fatto senz'altro, e non avrebbe fatto il passo che ha fatto. Vero Gianni, secondo me io la penso in questo modo, guarda. Purtroppo porta le persone alla disperazione la sanità oggi. Allora io conosco tutta la storia, perché a Natalino l'ho portato io a fare tutti gli esami e tutto quanto. A lui gli avevano fatto fare già il pre-ricovero, però non lo chiamavano più, stava facendo la cura del dolore, e manco con la cura del dolore gli passavano i dolori, c'avevano i dolori a truccia. A me mi diceva già vaggio di dolore di Lamuzzi, mi diceva questa cosa, tra l'altro devi avere un po' di pazienza, vedrai che ti chiamano, prima o poi ti chiamano. E magari un barone, dentro a Corsia. E appunto è quello che intendo io, se avesse fatto le cure a pagamento l'avrebbero chiamato subito, perché è così, massimo qualche giorno, 2-3 giorni, una settimana, proprio esagerando l'attesa, e l'avrebbero curato, sarebbe stato tranquillo e l'uomo pacifico sarebbe guarito. Invece l'hanno trascurato, non lo chiamano mai, allora quello si è visto disperato perché non ce la faceva più dal dolore che aveva, e ha fatto il gesto che ha fatto. Io la penso in questo modo già. Sì, la penso anche io così. Lui non ce l'ha fatta più a sopportare il dolore, perché stava facendo anche la cura del dolore, quindi, e non gli faceva più niente, non gli faceva più nulla, manco quella, aspetti un gonfio. Vabbè, purtroppo ha fatto questo gesto estremo, ma è anche da capire, perché il dolore io lo sto provando per la gamba, non sono riuscito ancora a farmi passare questo dolore alla sciatica, che mi si blocca la gamba, mi tira il muscolo, cazzo, guarda, la criba. Ne ho provato tutte, iniezioni, pomate, creme, di tutti di più. Sto regalando tanto di questo della farmacia di San Grassassa. Sì, ma ti credo, la sciatica ce l'ho avuto anch'io tanti anni fa. Ero ancora giovane, per dire, e ho fatto una cura lunghissima che poi non mi ha mai fatto niente questa cura. L'unica soluzione che ho trovato, sai qual era già? Te la voglio raccontare, ma solo a raccontarti questa storia, sembra, scusate agli amici Marco e Antonello, ma sembra una favola, eppure ti posso garantire che è stato così. Io ho un cugino che lavorava alla veterinaria, lavoravano praticamente, la sciatica non è altro che una malattia che ce l'hanno soprattutto le bestie, tipo le vacche, queste cose qua. E mi ha detto, cosa, la sciatica così, vieni, dice, da me in clinica, e ti metto davanti a una macchina, vedrai che ti passa subito. Ma da fai, esce me da mezzo, e vieni, insomma, ho insistito tanto. Di nascosto mi metteva dentro in questa stanza dove c'era questa macchina, davanti a una macchina che mandava calore. Beh, lo sai che quando uscivo non avevo il minimo dolore, però quando si raffreddava ero di nuovo da capo, a dolori. Allora io così ho pensato, ma questa cura me la posso fare a casa. Allora mi sono comprato una di quelle sue a parabola, di quelle elettriche di una volta, quella con la pigna eccetera, attaccavo quella, mi mettevo dei cuscini per terra con il capo, e mi scaldavo tutta la parte del fianco, dal lombo sino al tallone, ma mi facevo rosso come un pomodoro tutta quella parte. Beh, ti dirò Gianni che con quella cura lì mi è passata la sciatica, e grazie a Dio non ho mai più sentito niente. E prima avevo fatto più di 80 punture di trinebrina senza averne mai fatto nessun effetto. E io sto mettendo la borsa d'acqua calda giù, più o meno lo stesso, metto di quelle borse che si scaldano ai litri, lo stesso, metto la borsa d'acqua calda e nel momento sì mi fa bene, e poi se prendo umidità appena appena di nuovo mi succede che mi fa male. Avanti a chi tocca, Marco, ci sei. Ciao, ciao Gianni, ben sentito, ben entrato. E per la storia delle visite che bisogna pagarsele, ma il colmo sai qual è? Che praticamente voi contribuenti pagate per la sanità, vabbè anche mamma da parte mia, paghi le tasse anche per la sanità, però il colmo che ti devi pagare ormai quasi tutte le visite di tasca, chi può farlo lo fa, chi non può farlo si attacca, è come dire. Poi purtroppo, vabbè, per Natalino mi pare c'erano le ferie d'agosto e sai così, i signori medici si prendono le ferie belle lunghe, molto lunghe, non lo chiamavano mai e purtroppo esasperato, vabbè, ci sono rimasto molto ma parecchio male. Ho già, dopo tutto quello che ha passato, dopo tutto il veleno che gli hanno fatto sputare anche i vicini con questa storia del TVI, controlli eccetera, sembra proprio che non esista nemmeno una giustizia divina. Vabbè, comunque Giulio, ho controllato la marca e mi suonava familiare a Palazzetti, quindi faceva ottimi prodotti, adesso diciamo sta introducendo nei modelli economici anche per tutte le tasche, però i modelli economici diciamo stanno subendo l'influenza del mercato cinese, capito? Però ci sono anche dei modelli top di gamma fatti bene, fatti perdurare eccetera. Vediamo se c'è anche Antonello qua. Antonello, ci sei ancora? Io comunque per i dolori ho usato quella crema che usano i cinesi, quella scatola piccolina verde che poi la scatoletta è rossa di colore, quella te la spalmi, dove c'è il dolore passa. Io me l'ho messa quando quella volta sono caduto e ho preso in pieno la spalla, non ci avevo messo manco quel momento, l'unica cosa è stato quello che mi ha fatto bene, perché mi bruciava all'interno, capito? Quella bisogna procurare, quel tipo di crema, anche per la questione del collo, capito? Perché io soffro di collo, quando prendo freddo, per carità, incomincio a girarmi la testa e cose del genere, capito? Come si chiama questa crema lì? Fammelo sapere. Guarda, se la vedo dai cinesi, domani vi faccio un giro. Se la vedo da quei cinesi dove andavo io, ti faccio la foto e te la mando, così la vedi, questa crema qui. Ma ce ne sono tante, io ho provato Artiglio del Diavolo, ho provato il Voltaren, ho provato il Balsamo Cavallo, che io pensavo che ci avesse dato quella tuo cugino Giulio. Il Balsamo Cavallo è una pomata che mettono ai cavalli per le artriti e i dolori reumatoidi eccetera eccetera, ed è fortissima, se sbagli mettendola ti bruci, ne devi mettere appena appena perché se no ti bruci. E quella lì ti fa bene, sì, ma ti fa bene quando la metti, poi una volta che passa l'effetto, di nuovo ti viene il dolore. È roba di nervi, perché mi fa male tutto dietro, la sciatica, dietro il ginocchio, sino ad arrivare giù al collo del piede. Sì, è così Gianni, si sposta comunque continuamente, può essere nel polpaccio, può essere nella coscia, dietro. Io, guarda, non me ne voglio nemmeno ricordare di quel periodo, che io sono stato 7 mesi, non un giorno, 7 mesi, guarda, che tu pensi a uno che lavorava in proprio e non riusciva a lavorare con tutto il lavoro che si accumulava, tanti lavori li ho dovuti anche abbandonare e restituire eventualmente gli acconti che avevo preso, perché io lavoravo così, lavoravo prima di fare un lavoro qua al contratto scritto proprio in regola di legge, chiedevo anche un anticipo, chiedevo. Beh, ho dovuto restituire anche diversi acconti, ho dovuto restituire. Tu immaginati uno che lavora contro il suo, bloccare definitivamente per 7 mesi, una cosa così, tutto il lavoro. Sono arrivato a colcarmi per terra in mezzo alla segatura già in bottega dal dolore. Tu non mi crederai, mi vergogno anche a dirlo, eppure è stato così, dal dolore mi colcavo per terra sopra la segatura, Gianni, figurati. Sì, mi vede tipo un crampo, mi si blocca la gamba proprio, mi sento un formicolio e poi mi viene questo crampo fortissimo da crepare. Guarda che mi sono scese le lacrime l'altro giorno, non ti dico altro, quindi posso capire quello che provavi tu, perché lo provo io. Per carità, grazie, che situazione, grazie a Dio sono riuscito con quella cura della stufa, guarda, non lo so, e io avevo anche diffidato di quello che mi aveva detto mio cugino, ho detto vieni che ti fa bene, va, vieni che ti fa bene, alla fine mi ha convinto, intanto ormai avevo troppi dolori e non riuscivo, ha detto ma ci facciamo anche questo tentativo, cos'è che non ho fatto? Te lo sto dicendo, io ho fatto più di 80 punture di trinebrina, avevo le natiche, tutte e due natiche nere, come fatte dalla puntura, perché tutti i giorni, era una cosa incredibile, Gianni. Alla fine, oltre con la dolore alla gamba, mi facevano male anche tutte le natiche, perché la ferita di giorno in giorno non guariva della puntura, sempre lì, oh, mamma mia, non me lo voglio più ricordare. Avanti, Marco. Per fortuna sciatica a me non me ne viene, un po' dolori forti, no, ma mamma ne aveva sofferto. La cosa più brutta che ha provato lei era la meralgia parestesica, ma dice un dolore dice da preferire la morte, detto da lei. E poi la parte della gamba, la parte esterna della coscia è rimasta come anestetizzata e le ha fatto uno sbalzo di freddo improvviso, passando dal caldo estivo di fuori a un negozio tipo forse RMD, e c'era un tale freddo dentro, la differenza di temperatura le ha fatto venire questa meralgia. Una cosa dice da non credere. Io ho fatto iniezioni di voltare ai muscoli, le ho fatto due cicli di iniezioni di voltare ai muscoli, non mi ha arrivato un cavolo. Adesso l'unica cosa è provare da un fisiatra a vedere se riesce a mettermela a posto questa gamba, perché oggi sono andato al vero a prendere mio figlio all'aeroporto, guarda quanto ho fatto a tornare in macchina, dolori dell'altro mondo, mi sono dovuto fermare in un bar, invece un caffè prima di riprendere, perché c'erano dolori forti. Tenerlo sotto il peso del corpo, ma per carità, mamma mia, che cosa di... Vai Gianni. Ci siamo sovraffondati giù. Marco, questo qui è il microfono della Midland, come va? Sì, così, appena di scatolato, come dire, appena. E quale modello è? Quello che l'F100 della Midland, è quello che era in offerta a questa buona pizzeria. C'è appena dà l'impressione di sentire come che la capsula fosse dentro uno chassis vuoto, mi appena, non so se Giulio se ne accorge. Adesso l'ho alzato, guarda a vedere adesso. Meglio, forse in base alla distanza dal mic, non saprei, comunque non è male. Sì, per quello che l'abbiamo pagato, l'abbiamo preso io e Franco, quello della stazione, dai, come si chiama, non mi ricordo. Gianni il profeta. No, quello, aiutami. Quello della ferrovia, che ferrovia. Franco Binario. Binario. Però un po' di eco anche, Gianni, quel microfono ha anche un po' di eco. Sì. Però è tutto insieme, capito? Non è che c'ha un cursore per l'eco, un cursore per il volume, è tutto insieme. Se io alzo, l'eco diventa alto. One, three, four, five, six, seven. Ripete abbastanza, anche troppo di lì. Va bene, dai, comunque già va bene, dai, già si capisce quello che dici. Avanti, Antonio. Grazie. se va un delle che c'avevo io nel 680. Te lo ricordi, Marco, quando uscivo con il 680? Sì, più uguale. Sì, Antonello credo che sia uno dei pochi che ha messo il Roger Beep sul mare esterno, era nel mic, no, nel K. Questo era, capito, il Beep era dentro, figurati, ci avevo messo proprio sotto il Beep, avevo staccato la mascherina e avevo agganciato i fili, poi avevo perso il foglietto per toglierlo e avevo venduto così com'era. Gli ho detto, porta la picca e arrangiati, chi l'ho dato. E non riuscivo a cavarne i piedi per smontarlo. Perché c'era, ma non è che fosse così tanto difficile staccarlo, è come l'RB4 della Inter, che ha due cavi, due sono per la portante, poi c'è l'alimentazione rosso, poi il nero e poi quello per la ricezione, e quello bianco per l'audio, e poi quello bianco per l'audio va agganciato a Mikey King. Ed era più soli, c'aveva più soli, non era un unico solo. C'era il tasto, però a 1 e a 4. Che bella. Allora, comunque ci sono i Roger Beep, li vendono. È una scatoletta, c'erano gli spagnoli, c'erano. Si applica all'esterno dell'apparecchio, fa un sacco di suoni, fa. Lo fa in trasmissione e ricezione addirittura. Ricordati tu. L'avevo visto su YouTube tanto tempo fa. Sì, ma volendo, ci puoi mettere un microfono con l'eco, oppure con il bip, ci sono anche quelli che hanno il bip, microfono. E gli attacchi quello, non c'è bisogno molto di fare la modifica all'apparecchio. Ah, quello già ce l'ho, il microfono col bip, c'ho il Salerta, e l'altro Salerta, quello che c'ha l'eco. Che avevo agganciato al Superstar 3009, anzi siccome ho l'LMS200 devo agganciarlo di lì, devo agganciarlo. Poi l'altro microfono regalato a Giovanna, il pannipietto, l'avevo pagato 70 euro, me l'ha fatto pagare Fusa, gli ho regalato a Giovanna. E come il Red Devil, costa 75 lì, ho capito, adesso vabbè, non ho a comprare altri microfoni, per il momento la faglietta lo lascio così com'è, se gli metto un microfono palmare, di quelli che si usavano le batterie da 1,5, che ci sono in giro, ce ne sono tanti. Io ho anche quello dello Superstar, il microfono originale, l'apparecchio lo vedo, ma il microfono ce l'ho capito. No, se li metto il microfono amplificato, c'ho qua un coso, un F16, solo che quando l'ho agganciato alla paillette ha funzionato per 15, cioè per 15, e anche per 5 minuti, dopodiché faceva andare in tizio l'apparecchio, deve essere difettoso quel microfono. Infatti l'apparecchio di Leoncino, quando agganciava quel microfono lì cominciava ad andare in tilt con l'apparecchio, quello che c'aveva lui. Lì si è bruciato l'integrato audio e poi la seconda volta ai finali, perché gli avevano fatto rientro di distorsionare l'antenna, capito? E quindi ce l'ho ancora qui buttato con l'apparecchio, io ho detto, se riesco a trovare il pezzetto te lo metto a posto, se no gli ho detto, te lo compri nuovo, gli ho detto, d'altronde gli ho detto, stai tirando 500 euro adesso, non 350, quindi lo puoi anche permettere di comprare un apparecchio a seconda mano da internet, te lo prendi, ce ne sono tante, 35 euro, 40 euro. E mi stava chiedendo a me, dammi uno dei tuoi, ha giocato quella che io non so, ho detto l'ha fatto Lucchina, perché se compa ti dà un 3009 e tu fai quello che vuoi. Io ho detto, ti ho regalato uno, diciamo, il frequenzimetro e poi per non andare da una cosa, la Fabio Cossiga, dopo che aveva riparato, le pazienze si pagano. E lui dice, no, 80 euro, io non rispondo per averlo riparato. Allora ho detto, cosa vuoi di più? Io ho detto. Poi l'apparecchio e quando si vuole pagare, c'ha ragione, ci siamo visto tutto bruciato. Io qua un attimo già che ti rilancio. Antonio, gli spagnoli tra i vari bip con quelle scatolette, è come che avessero campionato anche la selettiva tipo Cicimi, tipo questa, risultava uguale. Esatto, sì, no, ho fatto una cosa del genere. C'è. Vai già. Chiamato? Ho detto giù, ma la mattina non c'è entrato nessuno. Non ho capito già, hai troppo ecco, mi ha divi male del radio. Ho detto la mattina non sta più entrando nessuno. Ma io tante volte provo ad accendere, però non sento mai nessuno. Gianni, prima c'era un altro, intanto mi rispondeva la buona anima di Natalino, ma adesso non mi risponde più nessuno, raramente, qualche volta con il Franco di Sorso, ma raramente, ma su un altro canale l'avevamo anche, quando eravamo a dire, mi sembra, sì, è difficile ormai la mattina riuscire a rincontrare qualche amico in frequenza. Io prima l'accendevo in macchina, ma ho acceso un paio di volte, non ho trovato nessuno e non l'ho più acceso. A volte faccio anche viaggi lunghi, per dire oggi in Alghero. E non l'ho acceso perché soltanto non ci sarà nessuno, cosa l'accendo a fare? Poi magari per rischiare che ti vedono, magari vuoi là, o ti controllano, o ti fanno, lo lascio a tuo spento e non è acceso. Se sono sicuro che entra qualcuno, magari qualche mattina entra. Lo so già, io vorrei che ci fosse qualcuno, ma se purtroppo non trovo compagnia, cosa faccio? Non è che posso stare tutta la mattina ascoltandomi il rumore di fondo del baracchino, se non c'è nessuno, pazienza. Comunque non ti fidare in macchina a modulare, fermati, se devi modulare fermati Gianni, non ti fidare troppo perché ci sono l'autovelox che a distanza, guarda, ti inquadrano, e oggi con questo tipo nuovo di autovelox è molto rischioso, ossia che ti fregano una bella multa e non si sa mai, anche per il fatto della patente, capito? Hanno messo anche dall'alto, ti controllano i droghi e ti vedono se hai le cinture, se stai parlando al telefono, ti vedono tutto quanto dall'alto. E hanno messo anche questi droni qua adesso, a rompere le scarpe. Poi guarda. No, ma io di solito me lo mettevo sulla gamba il microfono, guidavo con una mano e con la gamba, sulla gamba mettevo il microfono e non mi vedevano. Ma adesso devi avere tutte e due le mani sul volante. E appunto, a parte quello, che devi avere due mani sul volante, no, ma no, non rischiare, no. Già, non rischiare, parliamo, quando è possibile farlo in macchina, oppure se vuoi parlare in macchina, se dovesse capitare che trovi qualcuno in frequenza, fermati, parcheggia da una parte e lo fai così da fermo, allora così non rischi niente. Ma se stai transitando non rischiare già, guarda, è molto molto rischioso oggi. Avanti Marco. Sì, è vero, ci sono pene draconiane, cioè esagerate anche, però vedi la colpa è di chi ne abusa. Certo, c'è gente che con le braccia incrociate, cioè con il braccio sinistro si porta il telefono a destra e con l'altra tenta di cambiare e guidare col volante, cioè non va bene, te l'ho detto, ci sono 10-15 euro da Eurospin viva voce, Bluetooth, te l'attacchi alla letta a parasole, limiti la risposta automatica, non rischi nulla, ma la gente vedo che non gliene frega niente, preferisce rischiare sospensione di mesi di patente, multone, per niente poi. Ma quelli li devi caricare, Mario? sì, ha una batteria incorporata che dura discretamente e lo puoi caricare con l'accendisigari della macchina. Ti danno tutto loro, il cavetto, tutto loro ti danno. No, vabbè, io non ne ho bisogno perché ce l'ho incorporato nel Bluetooth, nel tablet della macchina. C'ho il Bluetooth, capito? Non ho bisogno, ce l'ho sul volante, quando devo rispondere premo il verde e rispondo. Mi arrivano i messaggi vocali, di tutto. Io, aspetta che riprendo, poi rilancio. Sa cos'è già? Penso tutte le macchine moderne hanno autoradio e Bluetooth incorporato per le telefonate, però certe volte, per esempio, l'audio è basso, allora la gente si buria, cioè il tuo audio ti sentono basso gli altri, no? L'interlocutore ti sente basso di radio, la gente magari ha difficoltà a regolare il microfono del Bluetooth, allora si buria e prende direttamente il telefono in mano e telefona. Vai Antonè. E questo c'è la cuffia qualcosa, con il microfono non vuoi dare qualche problema. Usa quello in macchina e si mette il telefonino nei pantaloni. E così guida con tutte e due le mani, ci vuole molto, no? Solamente quando in automatico, quando fa il suo squillo, si aggancia alle, come si chiama, l'autoparlante con microfoni. Che ho io della voce ce l'ho l'ho comprato a parte, se ne ho pagato 60 euro una cosa del genere, ma ce l'ho già da anni, ed è un viva voce che di solito si attacca al parasole, si attacca, però io anziché che attacca al parasole me lo attacco per dire che sono io al colletto della maglia o del giubbotto eccetera, e dunque è facilissimo. Quando esco dal telefono faccio altro che schiacciare il tasto e rispondo direttamente, così anche per chiudere la stessa cosa. Certo, se poi devo fare il numero mi devo fermare, prima formo il numero, poi magari riparto dopo che mi hanno risposto, però a fare altre cose è assurdo, no, non è possibile. Mentre là, nell'altra macchina invece, quello già c'è il Bluetooth tutto incorporato con tanto di telecamera eccetera, è diverso. Ma nella macchina che solitamente guido io, perché l'altra la guida quasi sempre mia figlia, quella lì ha 16 anni e dunque non ne ha di telecamera, anche se la macchina è nuova nuova ancora, perché pensa un po', 16 anni di vita e ha appena 43.882 chilometri, tanto per darti un'idea, Gianni. Non è così quanto la mia che ci sia. Appunto, l'altra macchina addirittura che ha solo 4 anni, che è per lei la Eco Sport, la Ford Eco Sport, quella lì ha già oltre 50.000 chilometri, tanto per ditene una, quella a 16 anni ha appena 43.000 chilometri, 44 quasi, mentre quella di 4 anni ne ha oltre 50.000, 53 o 54, una cosa del genere. Vabbè, tua figlia va fuori. C'è stato un break, facciamolo per la vacca, chiamate questo break. Ciao Sanpei, mi hai sentito, cordialità, sono in compagnia di Giulio Onaro, di Marco Condor e pure di Alessio Pompuni, avanti per chi vuole. Giulio, lo sento. Sì, lo sento. Ciao Gianni, ben arrivato, siamo qua in grande compagnia, per cui ci fa piacere che ci sia anche tu. Avanti Gianni di Sorso ancora, c'è Antonello e c'è anche Marco, vai Gianni. Ok Gianni, riprendo di nuovo io, magari volevo lanciarti direttamente Marco, ma tu, Marco a te non ti sente, però tu a lui già lo senti di sicuro. Avanti Marco. Ma che, non lo copio, io oggi sono con 4 watt, sono liscio, quindi non mi va di attaccare nulla, tu è tutto proprio staccato fisicamente, comunque lo saluto. Se mi copia, fate la ponte magari. Ok, ma così che ti copiate, ma Gianni di Sorso, quello che l'altro giorno non sono riuscito a sentire, tu 4 watt, io con 2, va bene lo stesso, non c'è problema, vabbè, è la posizione credo che conta. Vabbè, comunque Gianni di Sorso, tutti ti salutano e rilancio a Gianni da Sassari, avanti Gianni da Sassari. Ciao Gianni di Sorso, dai. Che antenna stai usando già? Ma qual è quella tipo Mangarello? una boomerang magari come antenna. Ma ci sono delle antenne che costano più che rendono, come quella che c'ha Marco Condor. Quale già? L'abbiamo messa su te, la prende. Ma che su te? Ah, vabbè, no, credo roba compatta. Marco, adesso se ne dice il modello dell'antenna che usa. Beh, con i 5 ottavi. È copiato già. Adesso prova di nuovo a ripetere, a vedere se ti sei. Eia, è la Mercury 5 ottavi, cioè la Mercury mezz'onda e la Mercury 5 ottavi. La 5 ottavi c'ha 3 radiali, la mezz'onda non c'ha, radiali non ne ha, ed è leggermente un pochettino più corta, così. Comunque vanno bene come antenne, quindi se leggere sono 5 ottavi e non hanno, cioè non sono pesanti ovviamente come la Super Lamb eccetera eccetera. Già sono buone come antenne, non puoi pompare più di 500 watt, però ormai quando ce la facciamo non ce la facciamo più niente, massimo 100 watt useremo, perché ce li ha. Va bene, io mi sento un attimino, ce la riprendo dopo. A tu adesso lì si è attaccato? No, sono staccato io, sono con lo 140 e mi sto tirando fuori 40 watt. Ma c'è cosa purtroppo si è attaccato al microfono. Sono attaccato al microfono, insomma. Aspetta. Guarda, adesso ho diminuito a quasi 20 watt. Adesso si chiama l'impiego del coarma. A watt in giù. Ok, sì, adesso è migliore la radio, così, oh, Antonio, così è migliore la radio, prima era un pochino troppo complessa, va bene, comunque, dai, è arrivato il momento, devo fare terapia io, dai, per cui devo lasciare, perché è un periodo che non sto rispettando gli orari, mentre me l'ha anche raccomandato il medico, rispetti anche gli orari, sia la mattina che la sera, per cui voglio incominciare da oggi a rispettare anche gli orari, sono già in ritardo, a dire la verità, di 5 minuti, ma comunque 5 minuti non è così grave la situazione. Comunque vi saluto tutti, dai, e vi ringrazio per il QSO. Ciao Marco, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo domani eventualmente. Ciao Gianni, doppio room, salutoni, grazie anche a te per la chiacchierata, è sempre un piacere ascoltarti. Gianni di Sorso, salutoni anche a te e Antonello altrettanto. Salutoni a tutti, io ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo definitivamente. Avanti Gianni di Sorso. Prego, buonasera. Registrato, avanti Sorso. Ciao Giulio, ciao, grazie anche a te per il QSO. Avanti Marco, qui per entrare in break. Ciao Giulio, ben sentito, ben entrato e ci sentiamo quando capita. Avanti Gavino, buonasera. Buonasera Marco, buonasera Gianni, buonasera Antonello, Gianni doppio rumo intendo, buonasera Antonello, buonasera Giulio, ben sentiti a tutti. Vi stavo ascoltando da poco fa, dai, non sono entrato perché stavo maneggiando qui. Dai, sono entrato solo per un saluto, per farvi un saluto e per una buona cena. Ciao Giulio, buonasera, sono entrato per salutarti. Avanti Marco. Ehi Agavì, quando vuoi, sei sempre ben accetto.